Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Se vi è capitato di visitare un museo recentemente, avrete notato che ci sono due tipologie ben distinte di visitatori. Sono quelli preparati, attenti, magari con un audio guida, che assaporano le opere d'arte. Poi ci sono quelli più distratti, magari annoiati, che fanno la fila, poi dopo mezz'ora si aggirano spaesati, magari vanno su Facebook o guardano il loro cellulare e poi se ne vanno. Eppure questa distinzione si affievolisce o scompare quando si parla di una mostra d'arte contemporanea, perché in questi casi tutto cambia, tutto viene messo in discussione, perché non si osservano le tecniche pittoriche, la perfezione delle sculture. Ogni opera d'arte è diversa dalla precedente. Spesso si tratta di installazioni che vengono realizzate con lo scopo di stupire, di scandalizzare il pubblico o magari di farlo pensare, sostengono gli autori. La stessa cosa accade ogni volta che si visita una mostra che riguarda il personaggio di oggi, che è uno degli artisti contemporanei più famosi al mondo, le cui opere vengono contese dai collezionisti a suon di milioni di euro. È un italiano, il suo nome è Maurizio Cattelan. Avevo un'idea del tutto personale e inverosimile del mondo dell'arte, e ancora oggi faccio il possibile per non sapere esattamente che cos'è e come funziona. L'arte è una specie di ambiente libero dove uno può stabilire le sue regole individuali. L'importante è attenersi a se stessi e alla propria visione, qualunque essa sia. Questi altri brani sono frammenti del libro intervista edito da Rizzoli, Un salto nel vuoto, realizzato da Catherine Grenier, che è riuscita a intervistare Maurizio Cattelan. Eh sì, perché lui è un personaggio schivo, non ama parlare in pubblico, non lo fa mai quando ci sono delle telecamere a riprenderlo. Addirittura in diverse occasioni si è fatto sostituire da altre persone che si sono presentate a suo nome, come è accaduto a Elio, che nel 2009 è andato a sostituirlo al Maxi di Roma. Questo atteggiamento deriva da una profonda timidezza, da una ossessione nel rimanere lontano dalla luce dei riflettori e per dare spazio esclusivamente alle sue creazioni artistiche. Prima di andarmene di casa, anzi molto prima, tra i 14 e i 17 anni, ho distrutto tutte le foto di famiglia in cui c'ero io. Praticamente non ho nessuna immagine di me stesso tra il mio primo e il mio 18° anno. Quando mi sono ricordato, mi sono detto: i casi sono due. O non volevi bene a te stesso, o non volevi lasciare tracce. Quindi sono un personaggio particolare, ma comunque già teso a creare attorno a sé un alone di leggenda del quale poi usufruirà. È nato il 21 settembre del 60 a Padova, nasce da una famiglia povera, il padre è camionista, la madre fa le pulizie e lui non ama la scuola, alla fine prende un diploma alle serali, poi lavora in ospedale, prima i corsi di formazione per infermiere, poi sorvegliante, per poi finire all'obitorio, dove Cattelan comincia, come dire, a affinare il suo modo di convivere, di sdrammatizzare, di giocare con la morte, che è una caratteristica che si vedrà negli anni successivi in molte sue opere. Agli inizi degli anni Ottanta c'è la svolta. Maurizio Cattelan si sente ingabbiato in una vita mediocre che non dà prospettive, così si licenzia, non vuole più lavorare. Inizia a interessarsi di design, crea lampade, crea mobili che poi rivende, poi va a vivere a Forlì, poi nell'85 un viaggio a New York lo fa entrare in contatto con un mondo totalmente diverso, fatto di creatività, di stimoli, è un mondo nel quale non ci sono vincoli, però per il momento la grande mela rimane un sogno, è solo una gita di breve durata. In Italia c'è una sola città che abbia, anche se in tono minore, quell'aura di creatività respirata oltreoceano. La città più vicina a New York è Milano, che in quel periodo tutti chiamano la Milano da bere. Mi sono trasferito a Milano nel 1990. A quei tempi la gente diceva: questo non è un artista, è un buffone, un tizio che fa delle cose che non si capisce bene cosa siano. Non ero credibile. Mi hanno sempre considerato come un buon tempone, un ciarlatano. Mentre ti assicuro che ero serissimo. Catalan ha appena realizzato la sua prima mostra a Bologna, è una galleria d'arte completamente vuota con un solo piccolo cartello appeso a un muro con una scritta: torno subito. La provocazione lascia basiti i critici d'arte, i giornalisti. Questo, insomma, basta per far sì che il nome di Catalan esca dall'anonimato. Il suo è un partecipare attraverso l'assenza, un riconoscere la difficoltà di comprendere le regole del gioco. Con questo spirito va a vivere a Milano e nel 91 avviene il suo debutto ufficiale con l'Opera Stadium, che è un biliardino gigante in cui 22 giocatori in carne ed ossa si fronteggiano in una partita. Bisogna avere fiducia in se stessi. Se un progetto ti piace, se realizzarlo ti piace e se piace anche alle persone con cui lo fai, allora sei sulla strada giusta. Significa che anche le persone che verranno a vedere la mostra si divertiranno. E infatti è andata proprio così. I visitatori non credevano ai loro occhi. Il falco e il gabbiano. A Milano Maurizio Catalan incontra Massimo De Carlo, che è un gallerista considerato uno dei più importanti galleristi del mondo. I galleristi sono un tassello molto importante nel mondo dell'arte, soprattutto oggi, perché solo grazie a loro un artista può trovare uno spazio per poter esporre le sue opere, per realizzare dei progetti. Spesso il gallerista deve avere l'intuizione, quel sesto senso che permette di riconoscere in un perfetto sconosciuto il grande artista potenziale. A volte il modo in cui si raggiungono i propri obiettivi è davvero misterioso. Non bisogna mai avere paura di prendere una strada, anche se il cammino è lungo, perché alla fine si arriva sempre al traguardo. Se non è oggi, sarà domani o dopodomani, ma ci arrivi. L'importante è che un gallerista ti sostenga al 100%, altrimenti è impossibile lavorare. E così, tramite la rete di conoscenze di De Carlo, Catalan sbarca a Parigi, dove incontra Emmanuel Perrotin, un altro celebre gallerista a cui propone un progetto fuori dal comune. Catalan gli chiede di indossare per più di un mese un costume rosa a forma di fallo dal quale spuntano delle grosse orecchie da coniglio. Una provocazione che nasce dal fatto che Perrotin è considerato un Don Giovanni. Il gallerista accetto, ovviamente Catalan viene catapultato in cima agli artisti più innovativi e provocatori del mondo. Questa non è che la prima di una serie di provocazioni con le quali l'artista padovano ama stupire, ama divertire il suo pubblico. L'umorismo è un modo per comunicare, per superare la barriera della timidezza. E se vuoi, serve da cortina fumogena per far passare un messaggio importante che, se espresso in maniera letterale, potrebbe risultare meno effettivo di quanto intenda essere. L'ironia nasconde spesso un momento drammatico. Sono anni di grande creatività, di gioco, di innovazione. Catalan inventa opere d'arte che a volte non esistono, come nel caso di Fondazione Oblomov del 92, in cui promuove una raccolta fondi di $10,000 da donare a un artista che si fosse astenuto per un anno dal esibire nuovi lavori. Raccolti i fondi, Catalan non trova però neanche un artista disposto a accettare l'offerta, così utilizza i soldi per un nuovo viaggio. A New York nel 96 c'è la sua svolta. Il colpo d'ala, le opere diventano più legate ai materiali, alla rappresentazione del mondo reale, l'utilizzo di materiali come il poliestere, la resina oppure animali imbalsamati, diventa parte integrante delle sue opere. Allora ecco apparire cavalli appesi al soffitto, elefanti coperti da lenzuola, piccioni appollaiati sul soffitto di una stanza sul cui pavimento si calpestano escrementi. Catalan stupisce, scandalizza, fa parlare di sé. Nel 99 c'è un'altra provocazione che coinvolge il suo amico gallerista Massimo De Carlo. L'opera si chiama A Perfect Day. Per un giorno intero De Carlo rimane incollato al muro della sua galleria con del pesante nastro adesivo. A fine giornata De Carlo perde i sensi, ha bisogno di cure mediche, viene portato al pronto soccorso, ma al meglio, se così si può dire, deve ancora venire, perché nello stesso anno Catalan viene contattato per una mostra a Basilea in Svizzera. Come accade per ogni sua opera, l'ispirazione su cosa realizzare avviene sfogliando libri e riviste in biblioteca. Alla fine l'attenzione di Catalan cade su un'immagine di Papa Wojtyla. Viene così realizzata una scultura in resina del Papa, è in piedi nell'atto di pregare. Però per Catalan c'è qualcosa che non va, non gli basta. Più passava il tempo, meno l'idea mi convinceva. Una volta finita la statua, ho capito che non avrei potuto esporla così, in piedi, e ho pensato di distruggerla, ma non sapevo come. Poi ho pensato che sarebbe stato interessante farlo apparire come un intervento dall'alto. Il Papa rappresentava mio padre, con cui ho avuto un rapporto conflittuale. Per liberarmi dovevo ucciderlo, e usare l'arte era l'unico modo per farlo. E così un grosso masso viene appoggiato sulle gambe della statua, che viene segata in due. In questo modo il Papa appare sofferente, schiacciato al suolo da un meteorite. Una delle opere più famose di Catalan, naturalmente suscita molto scalpore, uno sdegno generale che non fa altro che fare schizzare alle stelle le quotazioni delle sue opere, che cominciano a essere battute dalle principali case d'asta in tutto il mondo a prezzi milionari. È un altro colpo d'ala che rende Catalan uno degli artisti viventi più famosi e apprezzati al mondo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Maurizio Catalan, l'artista originario di Padova, che con le sue opere d'arte, con le sue installazioni al limite della provocazione, a volte anche oltre, rappresenta uno degli esempi più innovativi nell'arte contemporanea. Abbiamo raccontato dei suoi esordi fino al 99, quando realizza la Nona Ora, una statua di Giovanni Paolo II schiacciato da un meteorite, un'opera che crea scandalo, scatena l'indignazione di un certo tipo di pubblico di orientamento cattolico, ma che in realtà non ha nulla di blasfemo, se non la voglia da parte dell'artista di liberarsi dal complesso di inferiorità che lo ha sempre legato a suo padre. Non sempre quello che fai è interessante o pertinente. A volte riesci a toccare un nervo scoperto, a prendere qualcosa che è sotto gli occhi di tutti e metterlo in una luce tale da risvegliare la gente, farla pensare o discutere. Non saprei dire se sia un bene o un male, ma almeno questo permette di aprire un dibattito. E un dibattito è sempre un momento positivo e istruttivo, anche quando le parti sono in disaccordo. 2 anni dopo, nel 2001, ancora un'opera d'arte che fa discutere. Siamo in Svezia, una terra che durante la Seconda Guerra Mondiale è riuscita a rimanere neutrale, non si è mai schierata né a favore né contro il nazismo. Secondo Catalan era una neutralità apparente che nascondeva una sorta di assenso tacito alle mire espansionistiche di Hitler. Ecco perché proprio in terra svedese Catalan espone Him, una figura che riproduce Hitler inginocchiato nell'atto di pregare, quasi a chiedere perdono per ciò che ha fatto. Sconcerto generale, indignazione, scandalo per un'opera che recentemente è stata battuta all'asta da Christie's per oltre 17 milioni di dollari. È la definitiva consacrazione del genio di Maurizio Catalan. E negli anni successivi è un susseguirsi di queste, diciamo, trovate geniali che spiazzano il pubblico ma non fanno altro che sorprendere e far lievitare le quotazioni delle sue opere. Un artista che non ha mai avuto uno studio, che spesso abbandona le sue opere nel luogo in cui le realizza perché è impossibile trasportarle in un altro luogo. La provocazione raggiunge il suo apice nel 2004 con un'opera che per la prima volta non trova la sua collocazione all'interno di un museo ma in una piazza cittadina di Milano. A Milano, in piazza 24 Maggio, vicino alla Darsena, c'è un grande albero che domina tutto il traffico circostante. Volevo fare qualcosa che trovasse posto fra i suoi rami. Credo che ci fosse una targa nelle vicinanze che ricordava la morte di qualche partigiano. E a quel punto pensai che delle figure di bambini avrebbero funzionato per raccontare il mio disagio nei confronti di una città che non è così all'avanguardia come dicono. Catalan durante la notte appende 3 statue che raffigurano 3 bambini che vengono impiccati a uno dei grandi rami di questo albero. La mattina dopo il traffico sembra impazzito, la gente accorre, alcuni sono prima spaventati, poi indignati, si pensa allo scherzo di pessimo gusto di qualcuno, poi arrivano i carabinieri, la polizia, il mistero viene svelato e allora è il momento dei giornalisti. La notizia fa il giro del mondo, proietta l'opera di Maurizio Catalan in tutto il mondo. Un passante a un certo punto non ne può più e vuole, è quello buono o crede di esserlo, si arrampica all'albero, taglia le corde, distrugge l'opera, l'uomo si ferisce un braccio, la notizia conquista le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Nel 2010 Maurizio Cattelan viene invitato ancora a Milano dal comune a realizzare una mostra. Cattelan accetta a condizione di poter realizzare nuovamente un'opera all'aperto, fuori da un museo da collocare in una piazza di Milano. Il comune accetta, ma vuole ovviamente sapere prima cosa ha intenzione di fare l'artista, e lui presenta il bozzetto di una mano rivolta verso l'alto. L'idea è di rappresentare le parole libertà, odio, vendetta, eternità, le cui iniziali formano l'acronimo LOVE, ma che non vogliono avere niente a che fare con l'amore. L'idea è molto semplice. È un saluto nazista, fascista, troncato, ma non del tutto. E così si trasforma in un altro simbolo che è l'antitesi del primo. Lo si può leggere come una critica delle ideologie, ma è aperto anche ad altre interpretazioni. La mano è un elemento ricorrente della scultura figurativa, che risale addirittura ai tempi dei romani, con la mano nel saluto di Costantino. E poi c'è l'ultima provocazione di Cattelan. È una mano enorme a cui sono state tagliate tutte le dita tranne il dito medio, e l'opera viene collocata di fronte al Palazzo della Borsa di Milano, simbolo di quella Milano affarista legata alle banche, agli industriali e perché no alla corruzione. Cattelan dichiara di voler regalare l'opera alla città a patto che il comune si impegni a lasciarla lì dove è ancora oggi. Doveva rimanere solo 2 settimane, ma abbiamo idea che rimarrà al suo posto per molto tempo. Ma al giorno d'oggi la valutazione sull'arte diventa sempre meno oggettiva, e comunque bisogna essere preparati per parlare d'arte, e quindi io vorrei parlare di Maurizio Cattelan proprio con un signore che di arte ne sa più di tutti noi, che in qualche modo invece mi sembra abbia parecchie perplessità sulla vicenda. Vittorio Sgarbi, buongiorno. Eccolo, sono qua. Buongiorno, intanto volevo sapere il suo parere personale su Cattelan come artista e se si può usare la parola in questo senso. Parere personale riguardo alla persona. Sì. Per questo piano personale, l'ho incontrato una volta, sembra una brava persona, onesta, ironica, civile. Oltre alla persona non vedo altro, nel senso che se io immagino una impresa artistica, immagino una cosa che avrei con una sua realtà fisica, che è quella che noi abbiamo davanti agli affreschi di Piero della Francesca, che abbiamo davanti a Masaccio, che abbiamo davanti a Michelangelo, davanti a San Pietro, cioè qualcosa che tu dica è di Michelangelo, è di Cattelan. Certo. Da questo punto di vista, se io dovessi immaginare la contemporaneità, immaginerei ciò che io ho espresso come persona in una grande raccolta di opere d'arte dedicata a mia madre da Osimo, sì. Palazzo Campano. Uno va lì e vede un uomo che non ha dipinto ma ha proiettato sé su alcune opere. La stessa cosa a Salò, dove c'è un museo che si chiama Musa, costato un sacco di soldi alla regione, vuoto, e lì ho fatto una raccolta di cose a metare da Giotto a De Chirico. Allora, il critico in questo caso non critica un artista, ma crea un'opera. Anche quella si vede. Certo. Allora, Cattelan, cos'è che tu dici che è di Cattelan? Alcune cose riuscite, la più riuscita fu esposta a Palazzo Grassi, a Venezia, ed erano dei corpi stesi per terra come dopo un terremoto, quindi oggi molto attuale, coperti da un polo. L'intuizione era stata renderli perenni, come ha fatto. Epicesimo monumentum ere perennius, dice Orazio, vuol dire che tu vedevi questa rappresentazione fatta non come una cosa di teatro, ma fatta in marmo di Carrara. Sì. Quella rimane. Poi hai in cera il Papa Wojtyła che riceve un meteorite, anche quello è interessante. Ma si tratta di fenomeni in cui l'elemento scenografico e teatrale è legato al fatto che l'autore vuole mettere in evidenza la sua razza di personaggio. Certo. Persona diventa personaggio. Personaggio è un accrescitivo in senso negativo, un peggiorativo. Personaccia è quella che tutti conoscono. Ma noi quando parliamo di Cattelan parliamo di lui, la sua opera, anche quella più famosa forse, che furono i bambini appesi quando io credo non ero ancora assessore a Milano, che diventò tale perché un leghista o un paraleghista la tagliò, la fece cadere a terra, e si parlò di questa censura. Quindi di lui e della censura. Era stata avvantaggiata da un gesto che censurandola faceva parlare di quello che ha fatto Cattelan, un po' come Cristo sul Lago d'Iseo. Esatto. Cioè, sono delle forme di arte applicata per cui uno parla di un'intuizione che poi o sparisce del tutto come la passerella, quindi non c'è più, sono delle fotografie, oppure addirittura viene cancellata da un atto di censura e tu parli dell'atto di censura, quindi devi dire ha ragione Catelan. Poi ha fatto da ultimo, dopo quello di Ciapiva, lo ricordo, quell'idea che non piaceva Lavoratti, che è diventato un monumento davanti al Palazzo della Borsa a Milano, che è un dito è certo. Una mano che fa il dito che indica ti voglio inculare, insomma, sì. Credo che sia quello. Che alla fine è rimasta lì ed è una bella provocazione, ma non saprei dire se possiamo chiamarla opera. In ogni caso, in quanto è in opera, è un'opera. Certo. Allora, tu mi hai chiesto di parlare di una persona esatto. che ha fatto molti giochi e che io ritengo ammirevole. E quindi ma come... l'opera c'è l'opera veramente o c'è soltanto una battuta? Esatto, ma quindi battute. Come lo possiamo definire un personaggio come Catelan? Qual è sarebbe la definizione? Chiamato in passato c'era la parola... comportamentista. Lui è il massimo dei comportamentisti perché è diventato famoso con quello, ma le sue provocazioni potrebbero diventare opera come quando lui le rappresenta in marmo, e perché ci sono, ma in realtà quando vedi quella mano guardi l'opera o ti diverti a vedere la battuta? Certo. Se diventa una battuta in marmo, lui marmorizza la battuta, certo. Per cui è un fenomeno interessante di un tempo sterile in cui le opere d'arte non sono più monumenti simbolici, sono giochi, divertimenti, è cominciato da circa 100 anni, da quando Duchamp espose sì. nel 1917 un orinatoio, non sì. lo potevi più usare per pisciare, ma lo potevi vedere come opera d'arte, quindi lui è l'estremo punto d'arrivo di quella impresa che è difficile chiamare opera, è quella un'idea, lui comunque ha capito che quando fra 100 anni non ci sarà più nessuno di noi, quell'opera lì, la più forte che ha fatto, quella dei corpi sotto i lenzuoli, se è fatta in marmo, se è una, come dire, installazione, si dice subito, come a Bolzano, l'opera di quelle due ragazze, certo. che per ridicolizzare l'epoca di De Micheli, sono fatto una rappresentazione con delle bottiglie di champagne buttate per terra. La mattina dopo l'opera non c'era più, perché le inservienti delle pulizie l'avevano buttata via. Certo. Cosa che ha fatto molto parlare. Ecco, lui è al limite di quello. Però se è intelligente, se la fa in marmo, quella di Piazza della Borsa, come questi corpi distesi, alla fine, tra 100 anni ci saranno. Quindi si dirà, questa è un'opera di Catelan. Certo. Per il momento dici, questo è Catelan. Catelan è il suo divertimento, il suo gioco. Ma allora devo farle l'ultima domanda. Cosa può fare un artista, un pittore, uno scultore che si confronta con secoli di opere meravigliose che hanno avuto? Cioè, dove può andare un artista oggi per lasciare un da segno? Da poche parti, però hai posto il tema giusto perché c'è un caso emblematico. Il più grande artista si chiama Antonio López García. Sì. Come Manzoni ha fatto quasi un'opera sola, che sono due persone con i fronti di riace, un uomo e una donna, fatte in legno e in una sostanza, una resina, che lui sta finendo di compiere avendole iniziate nel 67. Sta ancora lavorando perché vuole che parlino. Certo. Vedi queste due figure bellissime. Sono un'opera assoluta perché lui insiste per perfezionarlo. Lui dichiarò, io ho potuto fare queste opere ed altre bellissime vedute di Madrid, quadri importanti e belli, dipinti o scolpite, opere scolpite, perché sono nato in Spagna. Perché davanti a me avevo solo sei maestri con cui dovevo misurarmi, che erano El Greco, Goya cioè. Velázquez, Murillo, Zurbarán e Picasso. Sì. Quindi io posso essere il settimo in Italia, se comincio certo. a fare l'elenco, Giotto, non entri nei primi cento, Caravaggio, certo. Tiepolo, quindi sarei stato sopraffatto. Per certo. fortuna sono nato in Spagna. Negli ultimi 15 anni si è talmente sentito sopraffatto dalla grandezza dei grandi artisti, qui è molto ammirato e guardato come fosse una specie di santo in Spagna, sì. ha cominciato a fare solo dei disegnini, cioè si è ancora più rarefatto. Questo è il più grande artista vivente, soggiogato da una forza che in Spagna peraltro è limitata ai sei che ho detto. Certo. In Italia c'è stato sarebbe tutto, ancora più difficile. Tutto. Se tu guardi i pulpiti di Donatello a San Lorenzo, sono talmente moderni che è inutile Giacometti, certo. è tutto, c'è già tutto lì. Donatello 1440. Quindi capisci che siamo Caravaggio più c'è più moderno di Caravaggio. Sì, succede in quasi tutte le arti quindi, in quella particolare. Quindi Caravaggio e Catelan hanno in comune soltanto le prime due lettere. Va bene, grazie mille Vittorio Sgarbi. Però mi devi dire una cosa, ma io non dovevo parlare con Ruggeri? Sì. E dov'è? Sono sempre io. Ah, sei tu Ruggeri? Sì, sono io. Mitico cantante di del nostro amico Pietroni. Esatto, esatto, sono io. Mi sembravi un vero conduttore, non sembravi ma lei, perché ci provo. Bravissimo. Grazie, grazie. Arrivederci. Anche tu sei come Caterang, hai fatto un'opera. Ho fatto sei trasformato in conduttore. Mi sono trasformato, sono un po' comportamentista anch'io. Bravo. Arrivederci, grazie. Ciao, arrivederci. Nel 2011 il Museo Guggenheim di New York dedica a Catalan una retrospettiva completa riunendo in un unico ambiente tutti i suoi lavori più importanti. È una installazione da togliere il fiato in cui le varie opere sono appese al soffitto, si intersecano tra di loro creando un effetto ottico senza paragoni. Da allora Catalan non ha più realizzato altre opere. Certo, non si può dire che sia andato in pensione, starà anche spendendo parte dei soldi che ha guadagnato, perché ci vuole tempo per spendere tutti quei soldi, però noi crediamo che prima o poi riapparirà magari in una strada di una città con una sua nuova opera capace di creare interesse e di scatenare polemiche, sempre secondo lui nel nome dell'arte. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto. Maurizio Catalan sicuramente lo ha fatto e sicuramente ha lasciato un segno, perché anche lasciare una scia di discussioni dietro di te vuol dire comunque lasciare un segno. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui volete che io punti il mio microfono, scrivete al sito www.radio24.it e soprattutto non so, al falco il gabbiano @radio24.it, oppure scrivetemi sul mio Facebook, sul mio Twitter, sui nostri social, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani.